di fisico, proprio di anche di viso. Avanti, prego. Gabba, quella buonasera qua dal nord Italia, si può ciao, ciao, ciao Donino. Ciao Luca. Ciao Luca. Avanti chi chiama l'Italia. Nord Sardegna, operatore Gianni Doppio Run dalla città di Sassari, avanti. Boh, forse è arrivato un bel forte qua, il tipo, passiamo forse qua. E beh, com'è? Com'è? Nord Italia era. Mister, stavo quattro chiacchiere con Tonino, se sono tutti andati. Stavamo elencando i vecchi cibilluti. Avanti Nord Italia, ascolti Nord Sardegna. Non ascolti, c'è qualcuno mai natalino oppure? Lo sento di sblatter. Dica, sono qua, cosa di sblatter? Ciao Tatari. Senti, chi sempre con me così rapida su Luca? Cazzo, è qualcuno ma ne dice qualcuno ma agli altri. Bubu. Andiamo. Ehi, a te ne immaginate già, fra. Andiamo me, andiamo. Bubu. Tirare quella roba là. Luca. Sotto. Oh Luca. Ma è sparito Luca. Sì, ci sarà spaventato. Tony, ma poi Rubino, ritiratela. Me l'ho mitigato. Non mi sono andato già, me l'ho mitigato. Ho trovato quel famoso vino che ti ho mandato sull'etichetta già. E ne ho preso tre bottiglie per il sicuro. Che buono che è, quello gentile. Dove l'ho preso? Dalla Lidl. No, l'ho preso alla MD che c'è a fianco a Carrefour. Ah, Carrefour. Praticamente guarda dove c'era il mercato una volta, lì c'è MD. Siamo andati anche insieme, non vedi che sei vintiato. E quando? Quando? Esattamente, stavi cercando qualche attrezzo, adesso non me lo ricordo, siamo andati insieme. Io mi avevo fatto la spesa mia e tu ti hai fatto la spesa tua, se ti ricordi. Ma non stavo cercando quel vino però. No, no, non il vino. È il vino. Quant'è che costa il litro? Ma non mi ricordo con esattezza, ma ho pagato un euro, ma un euro, no, due, tre euro a fare del genere, una cazzata costa, dai. 3 euro la bottiglia. E io ho pagato quasi 9 euro, 3 bottiglie. Non è una cazzata. Se da litro non è una cazzata. A me non è neanche litro, sono 750 ml. Non è poco, là. Deve essere un vino buono sicuramente perché non è poco. Avanti la Natalino, poi riprendi. Ai caro, quando fai così ti temo io. Ah, che bellino. Comunque già, il colore e tutto quanto quando metti il bicchiere è uguale a quello che prendi tu, quello frittatino dolce, che non mi ricordo, non mi viene adesso il nome. Lambrusco. Bravo, uguale. Ma lo bevi, ecco, altro che Lambrusco, 100.000 volte migliore. A me Lambrusco mi piace, perché non è forte e nello stesso tempo ti fa digerire, ma ne bevo mezzo bicchiere, non ne bevo di più a pranzo. No, non sono un grande bevitore di vino, anzi prima non ne bevevo proprio nulla. L'altra già se lo beveva un bicchiere bello pieno, ma io non ne bevevo. No, io un bicchiere di plastica pieno me lo bevo, uno e mangiando, ti invoglia proprio a berlo, troppo buono. Natali, ripeti. Lo bevi bevendo, non mangiando. Io lo bevo bevendo. Natalino. Spoglia che mi sto bevendo, un boccione di vino mi sto bevendo. Mamma mia. Ma sei alcolizzato, non ti basta essere cuoco, ma neanche alcolizzato. Poi, quello tu lo sai? Loco. Ah, non ti basta che sei cuoco, ma neanche alcolizzato. Quello tu lo sai? E io che lo so, l'ho inteso. Ehi, stamattina Natali Gianni si è fatta la scappata da Lellus Plutus. Sì, me lo posso immaginare, pigliassi quelle bombe mie, quelle belle ripiene di crema. Ma ha detto che ne ha preso 7, le ha messe tutte in fila, le ha incollate, pare un pifaro. Cazzo ne abbassa che va. Ma sono buone qua. Non so che sono buone. Ah, io sono andato a Pratamona stamattina a pigliarmi un po' di sole. Io, guarda, con le zone lì c'ero in tournée ieri notte, senza l'una di notte, era in giro. E io purtroppo sono ammogliato, non le posso più fare queste cose, queste uscite come fate voi. Io non ci cresce dal lupo, anzi adesso dopo butta la spazzatura, guarda un po'. Oggi ero di fare di ramazza, ero qua. E allora, te l'immagini, questo Gianni sempre in giro, che? Sempre con che, miei tu Gianni, bobo. Liberato, che? Allora, mia, te l'immagini questo Gianni il caldo, che? Per forza lo chiamano Gianni il caldo. Ho sentito uno che ha detto, bobo. Andiamo, bobo. Luca. Ciao Donino. E beh Franco. E beh Toni, a Londra, sempre cuccando Gianni sta, bubu. Aspetta Franco, che metto l'altro microfono, mi dice come ti arrivo. Mi arrivo. Hola, hola, hola. Oh, cuccando era un'amica. Ehi, vabbè. Ah, io già ce l'ho l'amante a Platamone, poche buona. Non era morta. Sì, non lo dia concetta, va tu me. Intanto lì mi ha dato il permesso. Non è quella che Marco riportava da mangiare. E vai, e bocchi di due. Attenzione Franco. Prova tu. 1, 2, 3, prova di modulazione, questo passaggio. E l'altro, 1, 2, 3, prova di modulazione. A me va bene. Troppo forte, mi era detto. Toni, quanto ci sta arrivando lì? Così va bene? Una bombetta, lascialo così. Oh Toni. Eia! Come ti arrivo lì? Dai, che mi dai un controllo a vedere come sta andando questo apparecchio qua. Tu sei in mezzo tra il 3 e lo 0, 9.30. Azzo. Se tu passo su qui con l'antenna di gomma, là. Tu lo sei. La mazza. 30. Tu con l'antenna di gomma, ami. Sì, ma la mazza però. La risa ne è capata Franco. Ha rimesso questo qua che quello lì è troppo casino, troppo grosso, il microfono è pesante, gà. Questa è una bella modulazione tu lì, questa di adesso. Cappa, questa è modulazione di Pavia, la prendi oggi e mai la butti via. Questa va bene, preamplificata, la voce è chiara chiara di uso. Ehi, quello sciuro è un bel potente, gà. Mi ero ben di sotto, mi ha giocato dei buffi. Addirittura. Sette. Io ce le ho dovute buttare le cuffie, me ne è uscito sto l'affare come ha parlato Tonino. Ehi, apro il bacone, Tarì. Ehi, mi hai crepato un paio di Sennheiser, mi hai crepato. Tutta colpa tua, Emmy. Quello perché lo sei andato a Brutulella, visto l'hai? Ma io non ci vado che da Brutulella, che sennò dopo mi si piglia la frenesia e mi mangio le bombe anche io, come quel Gianni il caldo, mi. E poi Gianni non le trova più, mi. Io da quando sono caduto non ci sono più andato, per scaramanzia. Ma che lo può fumare? Mi Luca, ti stiamo chiamando poco fa. Non era di splattere Natalia era qua. C'è qualcuno, quel Gianni, si sente dalla voce. Io lo so. Comunque io a te già ti ho visto, amico, il soldatore infilato nel braccio, già lo sai. Vero? Tu lo sai? Anch'io lo so. E chi te l'ha detto? Questa voce citofonica, la senti? No. Sono squelli, si sento. Comunque poco fa io ho collegato il Molise, che è un po' difficile da collegare. C'è un bel di propagazione, gà. Ma è difficile da collegare. Campobasso, l'ho collegato di brutto, Oh, dai, le ho quasi le 8, io guardo il telegiornale, poi mangio qualcosa e poi vado a buttare la spazzatura. Ok, dai, ci sentiamo più tardi, se ci siete prova a accendere sul 10, ok? Ciao Franco, ciao Natalino, ciao Luca, ciao Gianni, alle prossimine, ciao ciao. Ciao Tonino, ciao, alle prossime. Avanti chi vuole. Ritenetevi tutti salutati. Ciao. Lasciate là, ciao Gianni, ciao Tonino, buon ritmo tutto, ci vedo ascoltare le prossime. Vai Natalino. Ciao Gianni e ciao Tonino, chi su Gianni ma sempre sovramodulato come al solito. Avanti fra. C'è la mano veloce. Ciao Tonino, ciao Gianni, bello fra. Sempre gritti gandi, bobo. Luca Pugioni, vero Aburo, porca miseria che. Allora, quel Luca Pugioni c'è sempre. E poi se la piglia con me, mi dice che sono cuocuomane. Davvero? Vabbè Luca. Ehi, ciao Fra, secondo me è Natalia cuocuoma, secondo te? Ah, boh. Poi già la voce ha usato la bamba, si sente. Già la voce metallica. Prepotente, no? Vado, allora, la bamba. C'è un po' di famuccia, si è fatto un pezzo di pane con la fettata, non giù di mangia. Mangio una mela dopo. Ma non te ne va a fare, sì, possiamo fuori sassi domani. Farò lavoro. Io, avete da vedere come terra l'antenna io. Allora, te fra. Perché mi stanno stazionari, 1 e 2, 1 e 4, capito? Sicuramente c'era qualche problema con l'antenna. Da tiro e ci metto l'altra. Scoppione. Diciamo che quel tetto tuo non è una passeggiata, salisci. Ehi, azzo, io sono passato ora piazzata, ma già vivo. C'è un telescopico, la mollo, la abbasso, metto il cocco e ci monto l'altro. Beh, oh, via. Ma niente avete? Io sì, poi ero Mattesi. Ho già fatto. Anzi, lo stanno premendo un po'. Ho già fatto, come si chiama, il lavaggio al naso. Non so, poi metto la crema. Cazzo, il 16 c'ho dopo la visita, mamma mia. No, il 15, quando cazzo è? Un momento. Il 15. Il 16, di martedì. Ma giù, cazzo, mamma mia, giù di mendito. Che mattoria, Vabbè, ma adesso vai, respiri anche meglio, però, dai, Lu. Mi senti. Perfetto. Vabbè, non è perfetto al 100% perché c'ho le croste, ma uno me lo pulisce proprio... Allora metto queste parole qua, poi la cura, purtroppo adesso devi spendere, che se ci peggio di 400 euro. Però vedrai, poi stai bene. Ma che 400 euro? Medicina fa. Ah, vabbè. Tutto a pagamento, ragazzi, bubu, allucinante qua. Un casino, Vai Natalino. Sì, a me anda a dirlo. Già lo so già. Sì, tutto a pagamento. Ticket, esenzione ticket, il barocco ti vado a pagare una tesi, certe medicine le paghi, addirittura preso pieno. Allora, io chi mi si parla di 5 euro le pago 1,20, 1,30 mi pare, 1,60 se non mi ricordo. Poi se vado a comprare così le pago più di 5 euro. Poi se ho già lì ho un piccolo sconto, ecco. Poi per quanto riguarda l'esenzione, fra, non paghi le visite, perché se non avessi l'esenzione avresti pagato qualsiasi visita. Io non le pago. Beh, c'è l'esenzione del ticket, giusto? Ma già detto. Io ce l'ho scaduta e me la devo rinnovare. Quando andiamo a Gemmaia? Dove andare? Pizzo pizzo devi andare. La devo fare, vabbè. Cioè, è casinato questo periodo, quindi non l'ho potuto fare. Adesso per un po' di settimana di risolvere questo casino anche. Dove andare a Gucci, dove andare a Zanussi, ma tu mi vuoi, volevo andare a parlare per il soldo, tutto quanto mi sono andato. Mi stava chiamando Peppino spesso. Oh, gaga. Ah, gaga, ma da Pino? Ah? Da Pino? No, hai detto, nia gasino. Ho tutto nuda. Vabbè, state lavorando, sì? Lavori che hanno sopra? Ah, ho capito. Io per tanto ci ho assicurato da bui. No, è furto incendio. Cadagava, vai Natali. Tutto un macello, Per il lavoro, per tutto. È un macello. Io sono qui da un ipidare all'altro, ben divisi, ti chiccio, qui d'altro, ma va a panguarla. Ma va, cantando dalla abiettoia, che non mi ordini più un cazzo perché non vado da nessuna parte, glielo sto dicendo. Gli posso fare le analisi del sangue e basta, prima di venire. Non mi mandi a fare altre visite perché ne ho le scatole piene. E anche le buone visite e controvisite, le facilità tanto di chi sul tempo, che non hai idea. Ma poi mi cantumo come si gavani o fra, cosa mi ha fatto? Sì, vabbè, certe cure però le devi anche fare, un casino, Giulia. Va. C'è una che abita qua sotto a casa, che ha 96 anni, si fuma due pacchi di sigaretta da lì. Ma vuol dire che sa una rigascia? Sì. Allora, è andato il medico a visitarla e gli ha detto se gli dava un accompagnamento. Gli ha detto il medico che era più sana di lui. E era un grido. Pensa tu. Cazzo, si fa 96 anni, si fuma due bacchetti di sigaretti. Non lo so qui io. Io sono tutto disgraziato e non me ne fumo manco uno. Cazzo di altro, 96 anni. Vecchi! Se arriva a 70 è pure troppo io. 96 ne fa, entra in 97. Due pacchi di sigarette si fuma al giorno, pensa a tu. Brasil, mi arriva venuta. Questi due pacchi di sigarette, mamma mia, lo che date. Allora lui l'ho vista, ne accende una, la spegne, poi ne accende subito un'altra. Per carità, no. Meglio un udda. Io sapevo un bel fumo. Ma ti ricordo bene, l'altro medico dice che aveva l'accompagnamento. E il medico diceva già che era più sana di lui. Ma vabbè, alla fine va un pedine alla fossa. Da dove la fossa? Un'intelligenza allucinante questa qua. Tu pensa di fare parole crociate, lei c'è un casino, c'è una memoria di saperne una È da lucida, è da, a 96 anni, per quanto c'è. Lucida, si ricorda tutto, non hai capito no, c'ha la memoria sempre funziona, perché legge, fa parole crociate, di tutto, capito, segue tutti i telegiornali, di tutto sa, tu qualunque domanda gli fai lì ti risponde. E va 96 anni, magari arrivarci io a quell'età, ma neanche, non vorrei neanche arrivarci. Un bel magro, comunque si vede che sta dimagrendo ogni giorno, più la guardo e più di me, più magro mi sembra. Capito la questione, io un casino, ma c'è stato tempo brutto a mercoledì? No, c'è un badorra, oggi è 27 gradi, domani sono 20. Leggiti l'allerta meteo che sta arrivando mercoledì dal 10, cosa è? Leggi. Anche freddo e vento forte, non so dove è stato, al nord Europa è arrivando. Per abbigliamo buona, io. Questo dice, più dell'inferno, pensa tu cosa è arrivando. In tutta l'Italia, anche qua in Sardegna, tutto ha prodotto tempo vero, ma brutto, No, allora, mercoledì non ne ha messo 22 gradi, fra. Non è a me che Sardegna, io ho sentito la presentazione sta partendo dal 10 fino al 14 di maggio. Allora, oggi 27 gradi, domani 21, martedì 24, poi 22, 21, 20, 20, perciò freddo non è fa, non credo faccia freddo. Sì, le temperature abbassano, però non è fa freddo. Vabbè, io che previsione bisogno di generale non comprendo più nulla. Io stavo seguendo proprio il meteo, quello... il meteo del coso, del tempo, e ha detto così. E poi tu vai su internet e guarda un po'. Un po', previsione mercoledì in sud Italia, di cosa arrivando. Si sta arrivando una perturbazione nel nord Europa, con freddo e piogge forti, capito? Vabbè, pure lui mi dà dei soldi, però a volte da zero, io mi disegna soldi, boh. È vero. Ehi, ma pa' poco, mi fra, pa' poco. Allora, dal 10, ha dato praticamente 10-14 e poi comincia a migliorare, e le piogge forse piano piano, non ne vado più, Eva. Lasciamo fare che si può fare, fra, la futassare. Prima infatti, ma non va a puttana, non va a che cosa, non ci ha un tempo, non ti fa fare niente questo tempo, non ti devi fare mai progetti, mai. È un tempo così. Come dico, c'è un po' nieva, che se ne va all'aria, non si capisce più niente. È vero, ma proprio non si capisce più niente, tutto modificato. Vai Natalia. E infatti, cosa vuoi fare? Io mi riapro parendo i pantaloncini gocci, bando a piccare, cazzo, pigliamo un poco di soli, mi piglia già in culo, col culo di fuori. Aspetta però che ho scavato il gommone. Purtroppo adesso se arriva a questa perturbazione ce la prendiamo nel QSO. Sì, ma appena chi cae, ma lui comincia una bella giornata, mi si va il gommone. Ah no. Sì, è in maniera, ti faccio vedere come ci prendono quelle ratte da un paio di chili. Ah, io non li giro ricacciare con i denti, un dissimulino elevato e pare il rattori. Questo che ci porta la lente a 200-300 metri dalla riva, ti posso vedere come li pischi. Non fa in tempo a lampati su questi denti. Il satribi attacca a poco poco, a bucca, che da voi ne giro cazzo di cacciare con i denti io. Comunque ora ne ha preso una da 7 kg lì, l'altra sera, al Maloasi. Ah vai, in chi mi non vando io, cosa cazzo? Poi si sta ciappando in chi mi dici qui c'è già nel tutto, prima cosa. Lo so, ma è perché non mi mangio un bacio di vino. Marco Bassogno, per carità. In chi vi ando? Io lo so che vi so a chi andano a mangiare i cozzi, in chi vi tutti per dei pieni di petrolio. Una volta l'ho cucinato una, era sui 5 kg o qualcosa. Ho portato la mia sorella, l'ha spanciato, tutto, l'ha cotto, aveva un cago di naffa, allucinata, tutta buttata alla mondezza, tutta, non serviva. Allora, anche io mi sono tutti inquinati, so, lì entrano, cazzo, perché ci sono le cozze lì e vanno a mangiare le cozze. Però sopra il muraglione, vabbè, adesso non ti fanno più entrare, sopra il muraglione, l'altra parte sulla destra, non dentro il muro. Quelli da sopra il muraglione, quelli erano buoni perché erano di mare aperto. Ma che vuoi che ti dica? Io in Chivino non ci vado manco per scherzo, perché cazzo lì sono inquinate. E infatti il burro del colore, se tu vedevi i colori, tutti sbiaditi che. Vedo che gliela. Te la metti Luca? E qualcuno l'ha magazzata. Che deve aver bigliato il Duca? Se no scelga non sganciare della pesa ci imbecille e la gatta troppo sul coppo in capo e papà di insomma dico e che era una ganzata e a quella età per sé quel tipo era un bel grande tra un coppo in capo della butto una tari e noi ma cosa non va via ma io un coppo che va via a caccia di usaggio devi dire cosa giù messo io a Luca. Oh Luca ha perso lui Sara che è natalino, guarda, da paura, se non era più di un chilo. Ma grandi, mai visto che avevo Sara che così grandi. Succede. Purtroppo succede. E come toccavano nella roccia lì si liberavano immediatamente. Erano i manni, non ci avevamo coppo che ci arrivava perché era troppo in alto la situazione lì. Cazzo mi il coppo di Franco e Longomi, no, va via. Ma 4 metri, quindi era 4 metri. Io al Moroasi ci ho rimesso una canna d'arancio, ho lasciato la canna, mi sono allontanato un attimino, se vuoi durare non verrà più, ma mi fa abbassare dal muletto, ma un bel libero, non l'ho più recuperata con la canna. Peccato che... Oppure la Madonna, non è neanche la cosa, boh, come si chiama, neanche la Madonnina mi ti fanno entrare, non si può più piccare, ma che ivi. Però la rete non c'è, hanno aperto tutto, sin giù. Sì, me l'ha sarrato, adesso ho visto che è tutto aperto, quindi se non vedete si può pescare la Madonnina in fondo. Adesso con la di... Certe orate via la Madonnina, Luca Buccone, vissuta ogni attirata. Non vi puoi andare anche io perché tu cancelli, avanti, batto. Hanno sarrato tutto, bra. È aperto, mi hanno detto che hanno aperto, poi mi ha detto che è tutto abito. Finta la Madonnina, è andato lui, mi ha preso lì quell'orata. Capito? Mi ha preso una là, una lì, perché poi si è spostato. E ci può entrare la Madonnina, ma è pure un gatto, qua, domani scendo a vedere com'è, non per pescare, ma per vedere se hanno aperto, come ti senti tu. A chi ha giubito tutti i cancelli, bisogna pure delle camere, non solo d'altro. Tutto sarrado, non vi puoi arrivare la Madonnina, perché hanno messo i cancelli. Il Mariscano qua già una bicchio. No, Natalia Giudetto non è entrato, non lo so, allora c'è la chiave al cancello. Però questi ricca, è possibile. Sicuramente va la giava allora, cosa vuoi ti dica? Lui mai detto che è entrato. Poi se c'è la chiave, non lo so, non me l'ha detto di cancello però. Pure le fotografie di vozzo. Con l'accusa domani si vede un poco di soli che farà plattamo una parola pure a Pozzo d'Orra. E ti posso vedere chi non è come ti dici tu, che è tutto sarrado. E ti faccio le fotografie per fartelo vedere, fra. Mi pare strano, a me mi pare sia la lì che ha chiesto. No, è possibile che c'è la chiave, perché all'altro c'è anche la chiave del cancello, quindi è trappa, capito? Ma è baristrano, che c'abbia la chiave del cancello lì, perché ci sono le telecamere, ti vedono. Se tu metti la canna a pesca, viene subito alla capitaneria di porto, perché ci sono le telecamere, le ho viste io. Non è di ti sono così ingazzati, no? Cosa vuoi ti dire? Allora è favorato, cosa vuoi ti dire? O si maldite o se ti dico io non ci sono entrato, non so se è chiuso o meno, so che non è che non vi farò io, Natali, capito? Vai Luca. E tra me ti vedo, non si entrava a trovare a cocco. Ehi! Lui entra da tutte le parti, non ha problemi, conosce gente, capito? Che si dice che il della Monde sta bene dorati, allucinante che. Ma te la metti? Sei montatore che. Che è più facile, non è manco di stribata dorata, la pigliava con l'amo e granchietto, mica con un biombo, farava piano piano e canzava così. E poi lo fucile da sopra, capito? Era la branchi, mangiando cotto dal muretto, già facciava, ciuff! Ma non serve Luca, per carità. C'hanno le di naffata. Ma non ok, non sono quelle che entrano da fuori, ma ci bisogna di vedere. Lì ci sono tutto l'anno dentro, capito? Tutto l'anno i bigli. Ma è normale, fra, non sono disturbate, sono a filo banchina, capito? Si mangiano le cozze, riattivate al muro. Ma io vedo tutto l'anno. Tutti guardati nel pontile dall'altra parte cosa c'è, Luca. Che non vanno, va a pescare con il mostricciato qui. Adesso c'è il gomoncino, capito lui, col motore, e mi tiro la lecce al largo, ma ne vado via le rimbici, c'è il passo, entro, e mi tiro la lecce a fuori, non si rompe le balle nessuno perché è privata. Beh certo, grazie a su con la di... qualche calamari, qualche tatanà ce l'ho messa da parte. Sì, è andato un po' con giù. Neanche io quest'anno ci sono andato qualche calamari, ne ho la voglia di andare. Certo, a pensare che calamari, già sono con di 9 anni. Prima già andavo, la ne pigliavo. Ha vinto una tarigone, non lo so, probabilmente c'è una cazzata. Ma io ti posso rifotografare, ti posso dire che tu sei serrato e vi so pure le telecamere, vi so. Quindi tu si piazzi la canna da pesca e riesci a entrare, vieni la capezzaneria e ti dice che tu hai già tutto. Ma è scritto un cartello di vietto di pesca. Non so che ti dica. Io non volevo andare io a pescare, quindi no, non mi interessa. C'è il coso, te sto dicendo, vado là in quella spiaggia privata, non balla nessuno, non torno a fare balla nessuno, cioè metti la macchina, fai quello che devi fare, peschi, capito? E già lo so. Capisci, sei giunto, no? Te lo prendi cazzate, no? Lì è tranquillo, capito? Qui l'acqua è bassa anche lì, capito? E non è un problema. Ma lì c'è quel canale che ti ha detto che ci saranno 20 metri d'acqua. Io mi voglio un mone, zanne, ti cavi la rete e ce la butti in mezzo a quel canale. E poi vedi se pischi. E lì prendi anche le cose, come si chiamano, le corvine. Va bene dai signori, io vi saluto, ciao Natalino, ciao anche a Luca, me la passo in QRT e vado a vedere un po' di televisione, dai, se no mi sento che mi trombi la poltrona, no? Sì, anch'io faccio così, dai, fra, che c'ho la schiena a pezzi, dopo la concetta mi faccio passare con la medicina, 12 euro me l'ha fatta pagare, chi sono rapinatore di rugoso, di rufarmacista, un tubetto cazzo di crema, 12 euro e qualcosa l'ho pagato. Te ne fanno pagare un casino di soldi. Va bene, dai, ciao Luca, ciao Natalina, buon QRT, e ciao anche a Luca, buon QRT e buona carica, se l'ha già fatto, se la deve fare. Saluto eventuali SWL che sono in ascolto. Va bene Natalina, dai, ci aggiorniamo domani, ok, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, fra, ciao Luca, anch'io me ne passo il QRT, dai. Ciao Franco, ciao Natalina, buonanotte, alla prossima, ciao ciao. Andiamo a vediamo un po' di TV. Ah, tanto c'è lo show del record con Gerry Scotti. Ah, me la vai tu. Sì, è con Gerry Biscotti. Con Gerry Biscotti c'è stanotte. Ciao Luca Rie, che vai che mi avrei detto, c'è. C'è la capitania mia, sotto la Lucia, frate Luca Rie. Ciao Luca, ho contraccambiato tutto, dai. Buonanotte, vado a vedermi la TV. Ciao ciao.